avanti anche in via, diciamo così, via, vicino a via Napoli, la prima azione di là, e poi abbiamo fatto tante piante. Insomma, diciamo, e poi siamo stati con Marco, Don Marco, come si chiamava, quello che, con lui siamo stati vicino a via Napoli, come si chiama, non mi ricordo, ne sono rimasto sono 40 anni. Allora io ti dico una cosa, io ero alla Croce Blu, quando il CISO hanno dato la prima ambulanza, sono venuti da noi sia Giancarlo che Agostino a imparare a fare le lezioni di pronto soccorso, le ho fatte anche io. Poi praticamente dopo la Croce Blu io sono andato all'Avis, però non mi piaceva e ho mollato tutto e sono entrato al CISO, da lì non mi sono più mosso, sempre al CISO. Ma guarda che quando noi io con loro e avevamo un'ambulanza nostra acquistata, una portata da Tempio, noi avevamo quelle ambulanze basse, quelle che adesso non si possono più usare, sono più dito. Però almeno i primi anni quando abbiamo formato il CISO, che io ero uno dei primi, addirittura la mia testa era la 1 o la 2, perché poi c'è arrivato Giancarlo e Agostino. Per cui sicuramente se loro sono venuti a voi, sono venuti dopo, ma già avevamo i corsi noi comunque. No, no, erano due CISON diversi. Allora uno era quello che c'era via Napoli con Pilliccia, quelli lì, e non c'entrava nulla con quello che poi è stato fondato lì a Latte Dolce, dove io sono stato uno dei primi insieme a Agostino, Giancarlo, eccetera. Dopo che loro tenevano l'ambulanza da noi, che avevano 2.38, la tenevano da noi alla Croce Blu, perché noi della Croce Blu avevamo avuto un incidente con l'ambulanza, quindi non avevamo ambulanza nel momento, e loro mettevano l'ambulanza che avevano preso loro e uscivamo insieme, capito? Uscivamo insieme, io, Giancarlo, Agostino, prendevamo le telefonate dalla Croce Blu e uscivamo con l'ambulanza del CISO. Quella comunque è arrivata dopo, perché ripeto, a parte del CISO non abbiamo fatto. Sicuramente quando io mi sono ritirato e poi loro hanno fatto i tragitti, perché quando è preciso mi ricordo che anche altra gente si stava sorprendendo, perché quando è nato il CISO ancora solo a Milano si poteva usare il servizio emergenza con l'ambulanza. Quando è nato il CISO a Sassari l'ambulanza non esisteva, non era proprio previsto, perché solo in continente, a Milano mi pare, a Roma c'erano le ambulanze. Poi ci hanno dato l'affare, capito? Perché nasceva come SMOM, non tanto come CISO, e poi sono arrivate le ambulanze, una l'avevamo portato da Tempio. Però forse io già non c'ero più quando tu stai parlando di questa storia qua, perché io non sono mai venuto da voi lì, capito? Per cui sicuramente quello è arrivato dopo. Tieni presente che sto parlando del 1980, quando nell'81 nell'80 eravamo ad Alghero con Verratta e poi siamo venuti a Sassari. Va bene, facciamo girare, magari agli altri non interessa, avanti a chi tocca, Antonio, riprendi. A me stavi dicendo? Ma quando è partito il CISO qui in Sardegna è partito ad Alghero. Ad Alghero io ce l'ho appesa perché l'ho conservata, ed è 1980, ero con Verratta, Buonanima, Buruedo, abbiamo fatto il CISO ad Alghero. Ma ripeto, quando è nato il CISO ancora le ambulanze non le hanno previste, non c'erano proprio. Poi avevano autorizzato questo servizio perché noi protestavamo sempre, non ce lo permettevano, però dicevamo se ci sono a Milano, ci sono a Roma, perché non dobbiamo farlo anche qua? Da 1980 comunque, poi abbiamo continuato a Sassari. Ma senz'altro. Sì, anni 90, diciamo che non mi ricordo se è già andato via, perché poi noi abbiamo fatto un'altra associazione, avevamo fatto l'Eura, associazione Eura, non so se l'hai mai conosciuta, c'era Gia, Giancarlo, e facevamo servizi di protezione civile, facevamo se mi dici esatto, non te lo so dire, perché tu io facevo parte anche di andare da tu, capito? Che Paolo? Come scale che Paolo? Che Paolo? Non mi ricordo, ma magari ci ho anche conosciuti. Non so se tu da dire, quanti anni fa è il tuo padre? Io ne ho più del 65. Come si chiamava Pier Paolo, mi hai detto? Come si chiamava? Non è che frequenza, non vuole che cognome, così non ti arrivo, capito? Andiamo a vedere se c'è del santo, che spesso è stato via Napoli, e poi non era via Napoli, era un'altra festa lì, poi abbiamo fatto la sede a Napoli, e poi io mi ero staccato perché avevamo formato, allora era nato il polisoccorso con Gianfranco, Capo di Mosso, compagni, erano i primi anni che stavano frequenza, capito? Per cui adesso magari quella sera d'altro è studio qualche data. Erano diversi gruppi, Antù. A Latte Dolce non c'è mai stato Bruno. No, era Latte Dolce, era. No, è stato pure lì al Polso Porto, quando era ancora da via, come si chiama? Via Giusi. Ah sì, quello sì. Vabbè, ma quando è nato Polso Porto non è nato lì. Poi che hanno nato con la sede, allora ti dico una cosa, quando è nato fuori il corso, sede non era la sua, parte l'ambulanza la teneva Gianfranco, Graziella, ha fatto caso, non fa detto dai, figurati che io ho cominciato con un 238 vecchio, di quelli piccolini, che poi c'era una cosa per controllo la sirena a fischio continuo, che era anche proibito, facciamo perdere, avevo fatto poco. Avevamo una volta l'autovettura di quel che ci muovevo, ma fatta ambulanza, da dei questi proprio. Noi alla Croce Blu ci avevamo il 238, ci avevamo il cappuccino della Peugeot e lì su camminava un meme, faceva 180-190 quel cappuccino. Quale? Il 238, come faccio da tutte, ma prima che non lo chiamato loro. Ah, no, però era un'altra Croce Blu quella lì, Antu. Io sto parlando della Croce Blu, quella che c'era in via Pietromicca. La vera Croce Blu è nata via Pietromicca, dopo ha chiuso e loro hanno usato quel nome lì, però non c'entrano nulla con quella Croce Blu vecchia che c'era. La sirena a fischio, quando accendevano la sirena si tappava in tutti la legge. Poi avevamo una fischio continuo, allora. E poi avevamo a fischio continuo anche una Volkswagen che avevamo portato dal centro della croce pianta di fischio. Noi invece avevamo comprato il Volkswagen, però tipo nuovo, quello con i fari quadrati, bello, un 1.8 di cilindrata. L'avevamo comprata a Fulni, qui c'aveva il 4x4 addirittura, l'avevamo comprata a Fulni quello lì. Non è che ambulanza nuova, ma io ancora non lo so, c'è stato comprato, non abbiamo fatto Deura, non ho ricordato, mi sento di Deura, se c'era già una schiena, già mi sento io, già tranquillo, poi c'era servizio gratuito, perché noi siamo stati a fare, cosa che io gli ho detto di più, Allora c'era stato lui che andava in pulire la benzina con l'idea a me, perché prima era volontariato, non capisco. E così facevamo le accise, molte volte non c'erano soldi e mettevamo i soldi in tasca nostra. E quante volte? Vabbè, prima era una cosa diversa, prima si sentivano le cose, adesso fanno tutto per soldi, hanno visto che si guadagna e allora tutti, sì, l'euro io me la ricordo a Prattamona che faceva servizio lì alla rotonda, me la ricordo, non mi ero mai capacitato di chi potesse essere, però l'avevo vista l'ambulanza Eura. Cosa? Sono un minimo, però per noi conosciamo, Gianfranco si chiama per dirla. Ah, ho capito. Però se sono un cognome non mi pare che no, l'unico, allora, era piantato di Eugenia, era della responsabile, si chiama ancora adesso. È infatti. Ma già Franco Corrado sta quello che conosco io. E per un paio d'anni abbiamo fatto da fare di a Plantamona e con l'ambulanza è stata acquistata da loro. Ma già Franco quello che conosco io, che conosciamo lui anche. No, Gianfranco Solina, già no, no, il marito di Graziella, quello non c'entra niente. No. E io li avevo conosciuti questi due tramite Gianni mio amico, Gianni Marcello, quello della pizzeria del Sud, e lui era socio uno, noi avevamo proprio preso per fare un mutuo per comprare questa cosa e poi si era cacciato tutto. Comunque diciamo che avevamo avuto coraggio perché eravamo volontari e quando si faceva la macchina, quando pulire la benzina, andavo e me la pulivo. Prima era così. Che sono bello, però io ho detto lì devo passare al tema se non mi tocca più. Saluto, fatemi bene, mi ha fatto piacere, ci sentiamo la tua sera, ok, riprendiamo, ciao a tutti. E allora ciao Bruno, ciao, ci sentiamo, grazie per le quattro chiacchiere e buona continuazione di serata. Avanti Ian. Ciao Bruno, ciao, ci sentiamo alla tua sera. E adesso Gianfranco è lì alla Croce Rossa, ci sta bene lì. E poi il posto sicuro è parastatale, mi pare. Anzi, ma perché sto facendo così basso? Aspetta, Daniele, avanti. Ho detto a Antonio, ci sono mutato. Come mai tu sei andato così in basso? Come quanto? Ho capito, dai, questo è forse qualche problema mio. Ma vado, dai, riprendo che adesso vado a fare un po' di carica. Ci sentiamo dopo alle prossime se coincide, dai. Ciao, ciao Daniele, scusaci se abbiamo prolungato il discorso, dai. Mi ero proprio dimenticato anch'io, dai. Cappa, dai, saluta tutto il cuore, dai. Ciao, ciao, ci sentiamo. E a contraccambio, già. No, avanti, tranquilli, ha fatto piacere. Mi stanno ascoltando con piacere, dai, non c'è problema. Caba, caba. Va bene, Daniele, dai. Alle prossime. Avanti, Antu. Siamo rimasti solo noi. Qualche colpo d'aria ha preso. va, sono delicati, state attenti, sono molto delicati, non sono così piccoli. Vabbè, tanto succede. E io. Vabbè, io tanto chiudo, dai, che devo andare a preparare la roba a Tyson e poi devo fare la cena. Dai, ci sentiamo. Buona serata e tante cose belle. Dai, un bacio al bambino. Sarebbe altri, le luci poi le attirano i bambini. Ho pensato a quello perché ha detto almeno vede le luci e sta tranquillo, non si può abbinire. La fa? No, manco accenna il sorriso. Dove a tu ci sentiamo, dai, fammela buona, dai, ciao ciao.